Oh, Thank you. Oh! e senza dar sospetto. Il tuo che dici cambiamo. Dammi il braccio, perché non credo ai gemiti di Dio. Thank you. Ancora mascherate, o che siete dei conti, facete silenzio. Non voglio fino adesso abbia ricordi tristi, ogni dolore. Tutta una festa, un giorno noi, fuori spalancate ancora l'infannata, silenzio, tristine piccete, fuori spalancate, udite, e dalla strada salgo le voci che accendete, d'andare il venire, e nei rincorrenti, che avete mio ricordo. Respirar. Oh, Thank you. Concendo mio, manda i vestitoni. Sì, manderò. Or, quanto a te, inutil qui, a via. A meraviglia. Thank you. la commedia, ho recito la vita, ho in bestia di strio per farti via rapita. Apri occhi, muse, vedi ed impara la vita. Il vero amore mio vuoi tu sapere, e bellus me, io mi chiamo il piacere. Thank you. fanno va. La gente notte e giorno ad ogni cosa va che andara, lo sa calpennata. Già rossa di un miele, figlio si divora. O fare, è il piacere. La parete sottile scorre, si schiuda uno sciame gentile di donne nude. Qualche altro usata certo passerà, e in questa onesta pelle di giovinezza incafferà. Thank you. taglierò la staglia in più. E un sacco! Dietro! Eccola ancora! Dietro! E fammi in giù! Dietro! Io vado! Come la bocca, come i tuoi occhi, come...

mai? Voi bastonato, onde fai mestiere? O la livrea indossato del più gran re? Il piacere. Or siamo qui, così. Io per la mia vilfa carnefice, tu vittima per questa tua beltà. Perché io non lo so.